America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. We do know the NYPD is deploying its elite counter-terrorism squad to Times Square and other busy areas. This has all been happening overnight. Beh, avete sentito il newscast. La polizia di New York ha alzato il livello di sicurezza nelle aree più a rischio della città. Le autorità dicono è solo una precauzione. Ecco, devo dire, sarà stata solo una precauzione, ma l'azione è stata massiccia. Il governatore Andrew Cuomo ha dislocato un numero di forze enorme nei varchi d'accesso alla città, ponti, tunnel, aeroporti, e la conseguenza è stato per esempio che ieri il traffico al rientro in città dopo il fine settimana è stato impossibile, con ritardi anche di 2 o 3 ore rispetto ai tempi normali. Ecco, in tutto questo Donald Trump, come dire, invece di essere sul punto di comando a cercare di coordinare determinate azioni antiterrorismo, cosa ha fatto? Ha elargito pareri su Twitter. The reaction we saw from President Trump is not the kind of reaction we are used to seeing from an American president responding to such a tragedy. President Trump essentially taking to Twitter to pick a fight with the mayor of London. Già ieri mattina il presidente americano diceva che il suo ordine esecutivo, che voleva il bando sull'ingresso di musulmani da 6 o 7 paesi musulmani islamici negli Stati Uniti, deve essere immediatamente rimesso in azione, perché dice una misura di sicurezza. Altro tweet. Avete notato che non si parla di controllo delle armi? Ovvio, perché hanno usato coltelli e un furgone. E poi un altro ancora, dobbiamo smetterla di essere politicamente corretti e occuparci della sicurezza della nostra gente. Se non ci facciamo furbi, la situazione potrà solo peggiorare. Ecco, le critiche sono state immediate perché il dito è puntato contro l'opportunismo del presidente americano che cavalca la tragedia londinese per spingere la sua agenda politica, sia che si tratti di appoggiare la National Rifle Association e la libera circolazione di armi, sia che si tratta di riprendere il tema dei visti bloccati per coloro che arrivano da paesi islamici. Ecco, devo dire che poi però l'errore di Trump, perché secondo me si tratta di un errore, nel momento in cui c'è un attentato si rispetta il lutto dell'altro paese. In effetti Trump ha anche detto che avrebbe aiutato Theresa May, l'ha chiamata, ha detto che gli Stati Uniti saranno al fianco della Gran Bretagna, eccetera eccetera. Dopodiché però cosa ha fatto Trump? Ha attaccato il sindaco di Londra, che guarda caso si chiama Khan ed è musulmano. E il tweet dice: almeno 7 morti e 48 feriti in un attacco terroristico, e il sindaco di Londra dice che non ci sono ragioni per essere allarmati. Ecco, non puoi attaccare il sindaco di Londra nel momento in cui c'è un attentato nella sua città. Difatti il sindaco non si è neanche degnato di rispondere. Per lui ha parlato un portavoce che ha detto, tra l'altro, il sindaco ha cose più importanti da fare che rispondere ai tweet mal informati di Donald Trump. Ecco, insomma, devo dire, Trump ancora non ha capito che da presidente degli Stati Uniti deve mantenere una certa statura politica e istituzionale. È stata una sua dimostrazione, secondo me, di pessimo gusto. Per questo è stato attaccato da vari giornali e devo dire, per primo ha risposto il Washington Post, che dice in un editoriale, ha detto ancora una volta, Donald Trump mette in imbarazzo se stesso e l'America. Questo era il titolo dell'editoriale. Ma il vero missile inatteso, diretto, letale contro queste posizioni di Trump così opportunistiche è arrivato dalla penna di Rowling, l'autrice di Harry Potter, una grande celebrità in Gran Bretagna, ma anche in America, adorata da milioni di bambini. Ecco, cosa ha fatto la Rowling? Ha ritweetato il tweet di Trump che attaccava il sindaco Khan e ha aggiunto un suo commento che dice: chiamala leadership, Donald. I terroristi erano morti 8 minuti dopo la chiamata della polizia. Se avremo bisogno di un allarmista a pallone gonfiato, ci chiameremo. Ecco, cosa mi ha colpito in questa reazione della Rowling? È che le risposte su internet sono state straordinariamente più elevate per il suo tweet che per quello di Donald Trump, che pure ha 45 milioni di followers. Ecco, devo dire che forse ci sono anche altre ragioni per le quali Donald Trump interviene su queste tematiche di terrorismo cercando di distrarre l'opinione pubblica. Distrarla da che cosa? Sentiamo. James Comey is expected to testify before the Senate Intelligence Committee about any possible pressure he felt from President Trump to drop the investigation into former National Security Advisor Michael Flynn and Flynn's ties to Russia. Ecco, questo è un newscast che conferma che Jim Comey, ex capo dell'FBI licenziato da Donald Trump, sarà pronto a testimoniare giovedì di fronte alla Commissione Intelligence del Senato. Ecco, se Comey dovesse confermare quello che i giornali hanno detto, cioè che Donald Trump ha cercato di convincerlo a insabbiare quello che era un dossier che stava preparando, vi dicevo, contro Mike Flynn, ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump. Ecco, se questa cosa la dovesse dire pubblicamente, beh, allora a quel punto l'intera partita cambierà e devo dire, per Trump le cose potrebbero complicarsi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su America24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, voglio dedicarla a Londra con George Harrison. Give me love, give me peace on earth. Give me love. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!